later, then you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce, quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli il macabro ciclo della vita e della morte non accenna a rallentare, Kappa e Drago, adolescenti, rimpiangono il passato. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Kappa, se rimaniamo ragazzini è un vero casino. Come facciamo a confrontarci col nostro passato? Cioè? Cioè, si crea confusione tra i nostri veri 19 anni e questi nuovi 19 anni. E poi come la mettiamo con tutto il periodo intercorso? I nostri ricordi di quando eravamo adulti sono da considerare passato o futuro? Ciumbia, Drago, alla nostra età non dovremmo farci tutti questi problemi. Appunto, Kappa, ma qual è la nostra età? La magia di Dixie non ha cancellato i ricordi della nostra vita precedente. E questo non va bene. Che pacco! Appunto, che pacco! Dobbiamo assolutamente chiedere a Dixie di annullare il suo trucchetto. Ma no, Drago, abbiamo ceduto tutti i nostri beni a Dixie. Siamo perfino andati da un notaio. Già. Adesso ti viene in mente di ricominciare tutto da capo? Vabbè, ma preferisci forse continuare ad avere i ricordi e la coscienza di un adulto in un corpo da ragazzino? Beh, ragazzino. Oh mio Dio! Ma è gigantesco! La fabbrica di polli. Ma io vado in sbattimento così, eh? Non è mica possibile che proprio sul più bello Kappa e Drago siano di nuovo uomini a tutti gli effetti, eh? E perfino più giovani. E qui il mio piano rischia di saltare, eh? Ma che sbattimento! E così mi viene l'ansia, eh? Il respiro corto. Rimango immobile col cuore che va a mille, eh? In pratica vado in sbattimento, eh? E lo sbattimento è lo sbattimento, eh? Il divertimento è uno sbattimento. Ed il talento è uno sbattimento. È il talento. L'allenamento è uno sbattimento. Allenamento no, eh. Ogni momento è uno sbattimento. Sì. Il giuramento è uno sbattimento. No, io no, Su con il mento è uno sbattimento. Ma quale mento? Esser contento è uno sbattimento. Contento io? Il mio Nintendo è uno sbattimento. Il tuo Nintendo? Vivo il mio tempo di grande fermento, che gran sbattimento la vita mi dà. Mi dà, mi dà sbattimenta. Sbattimento, eh. Che cosa? Volete tornare uomini pollo? Sì. Ma è impossibile. Ma sì che è possibile, tutto è possibile. Ci ridai indietro i nostri averi e ci fai tornare come prima. È semplice. Non posso proprio. Sì. Il processo che è iniziato in voi non è arrestabile. E come? Sarete ragazzini per il tempo necessario, poi crescerete e ritornerete adulti. Ma no. Non è quello che volevate. Sì, però poi l'esperienza di essere ragazzini non è il massimo. Ciumbia, è uno sbattimento. L'unica cosa che posso consigliarvi è di rivolgervi agli uomini dell'Andù. Gli uomini dell'Andù? I polli informatici. Ma cosa c'entra l'informatica con la tua stregoneria? L'informatica al giorno d'oggi si occupa di tutto. Non perdete tempo, andate da quei due polli. Sono polli informatici, li vedete? Chiedete a loro. Sì, chiediamo loro. Che cosa gli chiediamo? Dai, Drago, abbi fede, Drago. Andiamo a sentire cosa dicono, poi vediamo un attimo. Ci sono delle differenze. Zitto un attimo. Come al solito si consiglia di usare Firefox, che comunque è quello che ha permesso anche l'avanzamento di questa tecnologia, perché rispetto a tutte le... Aderisce di più agli standard, al V3C, che è il consorzio per il web, per il World Wide Web. Ma quindi, ma iOS in pratica, cioè il carico operativo sul tuo PC e tu trasferisci meno dati possibili, funziona ti fa scambiare meno dati possibile tra in rete? No. La cosa più utile, cioè ci sono crea un ulteriore livello. Ma cosa dici? Ma che lingua? Ma non si capisce niente. Lasciamoli perdere, sono polli alienati che non potranno mai comprendere il nostro dramma umano. Sì, il tuo non lo comprende nessuno. Comunque, fratello, è andata così. Facciamoci un giro di puro piacere, ma dai, sì. Tanto vale approfittarne. Non so, facciamo un salto al club. Quale club? Paroxetina Club, Paroxetina Club. Paroxetina Club, un ambiente esclusivo in cui i problemi vengono attutiti. Attutiti, attutiti. Vuoi essere anche tu attutito? Attutito, attutito. Attutito, attutito, attutito. Una condizione invidiabile. Attutito, attutito, attutito. Chi non vorrebbe esserlo? Attutito, attutito, attutito. Inibizione, azione. Selezione, azione. Ricaptazione, azione. Le tre condizioni, azione. Indispensabili all'esclusività del Paroxetina Club. Se per la città incontri persone raggianti sotto la sciarpa e i cappelli, sappi che quelli sono i ragazzi del attutito, attutito. Paroxetina Club, attutito, attutito. Cucamonga, California. La vita è dura, fa paura. Alla mattina Paroxetina, inibitore selettivo della ricaptazione della serotonina paroxetina. In the middle of nowhere. Sì, purtroppo. Ma no, Drago, come? Bella lì. Io ci sto dentro, tu non ci stai dentro. Vabbè, scusate, ma non siete contenti di aver bloccato la polizzazione? No, Pollo, non siamo contenti, no. Oltretutto abbiamo lasciato tutti i nostri averi alla gallina Dixie. Ma no, ve l'avevo detto di lasciar perdere le galline episcopali, no? Sì, sì. Però comunque state tranquilli, perché la polizzazione si può tenere a bada, però è reversibile. Adesso non so neanche quanto resterete in questo stato. Ma state certi che prima o poi ricomincerete a trasformarvi in polli, eh? Vabbè, ma allora è un doppio pacco. Io voglio essere un uomo di 37 anni come prima. Beh. Né un pollo, né un ragazzino. Doppio pacco. Ragazzi, mi dispiace per voi. Ma Pollo, dacci una mano tu, che sei esperto qui, insomma. Vabbè, adesso sul momento mi viene in mente solo una soluzione. E quale? La roncoloterapia. Ma che roncoloterapia, basta. E come no, guarda che magari un paio di roncolate potrebbero farvi tornare come prima. Bravo, lo shock, lo sai. Io non vi assicuro niente. Vabbè. Però, se volete si può provare. Dai, io sono pronto. Ma cappa, dai, la roncoloterapia. Avevamo detto basta non roncole. Lamentarti, le roncolate di un pollo così piccolo non possono far così male. Quindi magari funziona. Dipende dalla roncola. Ma la roncola è proporzionata al pollo, quindi... Vabbè, allora cosa facciamo? Vabbè. E roncolaci. Roncoliamo? Dai. Ronco il drag. Altro che mini roncolate, tira certe botte. Ronco il capo drag. Capo drag roncola. Ma ha funzionato. Ma è vero. Ma bravo Pollo. L'avete visto? Non siamo più ragazzi. Oh, che siete contenti? No, siamo contenti sì, però insomma. Allora prendetene ancora due o tre. No. Roncola tutti e due. Roncola tutti e due capo drag. Che cosa succederà adesso? Ci saranno altre puntate che si concludono a roncolate? Lo saprete solo domani a mezzanotte su Radio 3 con il penultimo mortificante allestimento de... La fabbrica di polli. La fabbrica di polli produce, non chiude. Rebel, rebel, gather size. Rebel, rebel, keep on the night. Rebel, rebel, feed on the ground. I'm found, and I am sold. Bar Lumen.